Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Bentornati di nuovo a tutte e tutti i nostri teleradioascoltatori, siete su Liberi Dentro e Eduradio TV anche oggi, che è lunedì 21 febbraio, riniziamo la nostra settimana di notizie tra carcere, città, ospiti e rubriche. E do il buongiorno anche a Antonella Cortese. Ciao Antonella. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. Partiamo quindi subito dalle notizie di oggi. Leggo questa notizia dal Mattino a firma di Gigi Di Fiore, carceri. L'inferno infinito dietro le sbarre e quella riforma che non arriva e si allude chiaramente alla riforma della giustizia. Beh, come sapete anche già dal neo eletto e riconfermato Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non ha dimenticato le difficoltà del nostro sistema carcerario, lo ha ripetuto questa questione aperta delle carceri nel suo discorso di inaugurazione del suo nuovo mandato, dicendo: dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurino il reinserimento sociale dei detenuti. Quindi frasi brevi ma molto forti per denunciare uno dei più grandi drammi nazionali del nostro paese. Caterina, i problemi ovviamente ci sono, giustamente il Presidente lo ha citato, ma quali saranno per il Governo i problemi da affrontare su questo tema? Beh, intanto partiamo dalle recenti notizie anche in ambito amministrativo, perché da inizio marzo ci saranno le dimissioni del responsabile del DAP Dino Petralia, quindi per il governo ci sarà una nuova decisione da affrontare per eleggere il nuovo presidente, senza poi dimenticare quelli che sono gli annosi mali del sistema carcerario italiano, come sovraffollamento, suicidi di detenuti, tensioni anche molto violente e strutture fatiscenti, che restano le questioni aperte, come dicevo prima, in un paese che anche sul suo sistema carcerario, come ha già detto il presidente Mattarella, gioca la sua dignità. Eh sì, hai toccato una dolente nota, che è quella del suicidio in carcere. Ci racconti che cosa dicono i dati? Ma intanto questo è un problema gravissimo e lo vogliamo ricordare anche noi su Liberi Dentro di Radio, che all'interno delle strutture che dovrebbero garantire e vigilare sulla sicurezza delle persone si verificano casi in cui le persone invece si tolgono la vita. Quindi tornando invece ai dati, che sono nefasti, Antonella, ci dicono che ci sono stati 8 suicidi di detenuti nei primi 24 giorni dell'anno corrente, uno quindi ogni 3 giorni in pratica. Le condizioni carcerarie creano sofferenze, difficoltà e disagi, questo lo sappiamo, tanto che recentemente ha commentato il Garante Nazionale dei Detenuti Mauro Palma: occorre un dialogo largo per affrontare le difficoltà dell'affollamento particolarmente accentuate dalla pandemia. Quindi, come vi dicevo, i dati dei suicidi in carcere sono preoccupanti, sono stati 54 nell'anno 2021 e l'anno precedente, 2020, erano stati 61. Eh sì, abbiamo cominciato l'anno molto male, questo sicuramente. Del resto c'è da dire che il sovraffollamento genera tensioni, ma anche proprio la difficoltà a gestire gli spazi carcerari sempre più ristretti. Ricordiamo che la pandemia, insomma, ha anche aggiunto un carico in più, no? È assolutamente vero quello che dici, se si considera che nel sistema penitenziario ancora più pesanti sono state le ripercussioni dall'effetto pandemia. E proprio perché siamo proprio già ai 2 anni dell'anniversario dell'inizio dell'allarme pandemico in Italia, ricordiamo anche le cifre del carcere. Al 1° di febbraio, secondo i dati del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, i detenuti positivi al Covid erano quasi 4.000, con 46 nuovi contagi, in prevalenza asintomatici. Certo, ma è stato un picco mai raggiunto prima da inizio pandemia. Quindi per 24 dei detenuti ammalati di Covid è stato anche necessario il ricovero in ospedale. Caterina, senti, torniamo un attimo sul sovraffollamento, che è una cosa molto importante. Sì, il sovraffollamento resta il primo e più grande e più grave tra tutti i problemi, come anche ha dichiarato la ministra Marta Cartabia. E anche qui i dati ci dicono che nelle carceri italiane sono 53.586 i detenuti attuali. Sono numeri altissimi, perché anche per un organico di polizia penitenziaria che ha delle cifre ovviamente molto molto più basse, sono circa 36.939 gli agenti che vivono anche a contatto con i detenuti, perché vivono anche loro in qualche modo la condizione penitenziaria, essendo tutto il giorno, ecco, a sorveglianza delle persone. Con dati aggiornati sui posti regolamentari dichiarati nelle carceri, secondo i dati del Ministero, a metà gennaio erano quasi 7.000 detenuti in più nelle carceri rispetto alla capienza possibile. Insomma, più detenuti rispetto ai posti regolari nelle carceri, con ripercussioni sulla sicurezza e i problemi ad assicurare percorsi di recupero che sono anche richiamati dal Capo di Stato, senza contare le condizioni delle strutture carcerarie che come sempre sono fatiscenti. E troppi detenuti insieme con le carceri inadeguate moltiplicano oltretutto le difficoltà di gestione delle tensioni che sono anche violente. Per concludere, insomma, si è aperto, come dicevamo, un anno anche per il carcere pieno di sfide enormi, ma queste sfide rappresentano anche un invito a interventi rapidi che sono rivolti proprio alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che dovrà cominciare proprio dalla nomina a marzo del nuovo capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria DAP, che è anche una nomina molto molto delicata. Quindi a partire da questo poi ovviamente la riforma della giustizia che stiamo aspettando e quello che verrà, speriamo sempre in meglio. Ma passiamo alla musica, prima di passare alle notizie con Antonella. Da oggi per tutta la settimana, con le canzoni in gara del premio Voci per la Libertà di Amnesty International per i diritti umani del 2021. Quindi ascoltiamo Eugenio Bennato, Viva chi non conta niente. E viva chi non conta niente e che continua a non contare, con la sua musica di sempre, che è sempre musica che non vale. E viva chi bacia la terra da cui è costretto ad andare via, ed anche se non conta niente, e viva la sua nostalgia. Viva l'arte che si ribella, e se non l'arte che ci sta a fare, e non ammette nessun padrone, e non la smette di navigare. Viva la canzone che attraversa ogni frontiera, perché la sua umanità non può essere straniera. E viva la sua vela che si muove lentamente, ma può andare dove vuole, perché va controcorrente. Viva chi non conta niente, col suo deserto da attraversare, con il suo viaggio della speranza che può anche andare a finire male. Viva l'ingenuità che avanza nel sogno di un lasciapassare, verso la piccola grande Europa che ne ha sentito tanto parlare. Viva il senso della bellezza che va nel mondo e lo può cambiare, e non può ammettere che una razza sia meno libera e meno uguale. E viva la canzone che continua a navigare, perché essendo melodia niente la potrà fermare. E viva la sua anarchia, anche se non conta niente, ma può dire cose nuove, perché va controcorrente. Della terra, migranti verso chissà dove, e viva il viaggio della speranza, e viva la disperazione, e viva chi non muore per poterci raccontare il coraggio che ci vuole lì da soli in mezzo al mare, e viva la canzone. E rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale. Siamo con te, Antonella, sempre su Liberi Dentro, chiamare chiaramente. Parliamo delle Olimpiadi invernali in Cina e anche del fatto che una delle armi principali nell'arsenale del soft power statunitense, che è sempre stato lo sport. Però prima cominciamo dalla definizione principale, ecco, che cos'è il soft power? Giusto, giusto Caterina. Io ti cito una definizione della Treccani, quindi insomma la migliore che abbia trovato. Espressione coniata negli anni 90 del XX secolo dallo scienziato politico statunitense Joseph Nye per definire l'abilità nella creazione del consenso attraverso la persuasione e non la coercizione. Quindi la definizione di soft power è questa. E l'articolo che ho letto su Internazionale è molto interessante, perché oggi dice che quest'arma sembra un po' spuntata, a giudicare dai segnali che arrivano dalle Olimpiadi invernali di Pechino. Infatti a dicembre del 2021 Washington aveva annunciato che non avrebbe mandato i suoi rappresentanti a Pechino proprio per protestare contro il genocidio perpetrato dal governo cinese nei confronti della minoranza uigura nello Xinjiang e contro altre violenze dei diritti umani di cui chiaramente la Cina è protagonista. E altri governi, tra cui anche quello britannico, quello giapponese, sembravano aver aderito alla protesta. Però sembra che il boicottaggio non abbia raggiunto l'obiettivo, che era semplicemente spostare l'attenzione del mondo sulle ragioni della protesta. Semmai, poi il 3 febbraio, con l'incontro di Xi Jinping e Vladimir Putin, è stato dimostrato che il fronte anti-americano è forte e compatto e in ogni caso questi boicottaggi non hanno funzionato in realtà. Oltretutto si è anche molto discusso sulle pagine dei giornali che nella squadra olimpica cinese ci fossero molti atleti e atlete nate e cresciute negli Stati Uniti, vero? Esattamente, Caterina, infatti ne voglio citare un paio. La sciatrice acrobatica Eileen Gu e la pattinatrice artistica Zhu Yi. La Gu è nata a San Francisco, è una modella e a settembre andrà a studiare economia a Stanford. E ha detto di sentirsi sia cinese sia statunitense, ha spiegato di aver deciso di competere per la Cina per ispirare i milioni di giovani del paese dove è nata sua madre. E l'8 febbraio, tra l'altro, ha vinto l'oro nella categoria Big Air. È stata celebrata sui social network cinese come un'eroina nazionale e il governo di Pechino ha cercato di descrivere la sua scelta come un endorsement alla politica del Partito Comunista Cinese. E mentre Zhu Yi ha avuto purtroppo la sorte opposta, perché durante la gara ha perso l'equilibrio ed è caduta. Oltretutto, purtroppo per lei più di una volta, e alla fine la Cina è arrivata quinta e migliaia di persone l'hanno insultata. Tornatene in America è una delle frasi più ricorrenti, pazzesco. Comunque questo è un segno dei tempi che stanno anche velocemente cambiando, no? Sì, infatti è così, Caterina. Fino a non molto tempo fa sarebbe stato impensabile che atleti di altissimo livello preferissero la nazionale cinese a quella statunitense. Se ci pensi, anche la Gu poteva fare un'altra scelta. Ed era normale anche che gli sportivi statunitensi di origine cinese ricevessero un'accoglienza positiva dai tifosi cinesi. Pensa che negli anni 90 il tennista Michael Chang, nato in New Jersey, da genitori taiwanesi, fu accolto in Cina quasi come un eroe. Stesso discorso per la pattinatrice artistica Michelle Kwan, nata in California da famiglia cinese, che nel 2011 fu perfino invitata a una cena di Stato con Barack Obama e il leader cinese del tempo Hu Jintao. Oggi invece i discendenti di cinesi che gareggiano nella squadra americana vengono apertamente presi di mira. È successo ai pattinatori artistici Nathan Chen, che ha appena vinto l'oro, e Vincent Zhu, attaccati per aver appoggiato, anche diciamo debolmente, le critiche a Pechino sullo Xinjiang. E quindi anche socialmente, quali sono le ragioni di questo cambiamento? Queste dinamiche sono un po' frutto della perdita di appeal internazionale degli Stati Uniti, bisogna dirlo, a vantaggio della Cina che sta prendendo sempre più posto e anche della radicalizzazione dello scontro tra le due potenze, del crescente nazionalismo che sta avendo la meglio nella società cinese. Però pesano anche delle scelte economiche. Come ha spiegato Forbes, per Eileen Gu la scelta di competere per la Cina si rivelerà anche molto azzeccata dal punto di vista economico. Insomma, Eileen stipulerà contratti pubblicitari e di sponsorizzazione sia in Cina che negli Stati Uniti ed è in una posizione unica. Pensa anche che in Cina cominceranno, visto che lo sci non era uno sport così quotato, ci saranno grossi investimenti anche su questa disciplina e quindi grandi margini commerciali. Poi il fatto che un atleta riesca a muoversi così abilmente tra i due paesi, mentre le tensioni politiche sono in aumento, è un ulteriore segno di come la globalizzazione economica e finanziaria condizioni la politica internazionale. Parlare di nuova guerra fredda tra Pechino e Washington oggi non ha tanto senso, perché a differenza di quello che succedeva ai tempi dello scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica, oggi le economie delle due superpotenze sono intrecciate in modo veramente inestricabile. E Caterina, però restiamo in Cina, restiamo in Cina con una cantante molto brava che si chiama Jane Zhang e la canzone Dust My Shoulders Off. E poi continuiamo con l'intervista a Fabian Lang, presidente dell'Associazione Universo. A più tardi. Just had a bad day, had car trouble on the highway. Stupid boss don't like me, spill hot coffee on my blue jeans. No money, it ain't funny, but it's too sunny outside. So I keep smiling, I won't start whining, I just keep living my life. Can't keep me down, me down. It's only temporary, can't make me frown, me frown. So I ain't ever worried. The world keeps spinning, life goes on. Girlfriend, your boyfriend left you, but the party's still going on. Everybody here saying, "Dust your shoulders off." See him kissing in the kitchen by the bathroom, but you don't let it fizz you. Go hit the bar up, go and get his car up, and tell him that it's karma. Can't keep me down, me down. It's only temporary. Can't make me frown, me frown. So I ain't even worried. The world. Drama, all about my numbers, tell them that about my face. You don't even know me, you don't even know me. Save it for another day. I ain't dropping off a drama, all about my numbers, tell them that about my face. You don't even know me, you don't even know me. Save it for another day. Eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Libri Dentro Edu Radio. Per la pillola di oggi siamo ancora insieme a Fabian Lang, volontario all'interno del carcere di Bologna della Dozza. Parleremo insieme a lui, ancora una volta, della sua attività di volontariato all'interno del carcere insieme alle persone detenute. Godetevi la pillola. Fabian, allora parlaci del rapporto che si instaura con le persone detenute. Nel tuo caso ti è mai capitato di legare spesso con le persone ristrette con cui avevi a che fare all'interno del carcere? Sì. I rapporti sono belli, molto importanti, soprattutto per un'attività come la nostra. Noi facciamo un'attività filosofico-morale, cioè entriamo in contatto con la parte più profonda della persona nella ridefinizione della sua vita. Quindi quando arriviamo a quel livello di sincerità, inevitabilmente il rapporto diventa più stretto, anche perché noi siamo fuori, loro sono dentro. Abbiamo parlato della speranza di uscire, e la voglia di rielaborare la propria vita, capito? Quindi il rapporto è molto intenso, mi scrivono delle lettere, fuori non vedo degli amici che mi scrivono le lettere, da dentro mi scrivono le lettere, non vedono l'ora che arriviamo. E poi una volta che escono, la prima persona che chiamano molto spesso sono io o qualcuno dei nostri volontari, e poi nel rapporto di accompagnare in permesso, quando cominciano ad avere i benefici, è molto interessante perché, cioè, io mi ricordo la prima volta che ho accompagnato fuori un detenuto, era qualcuno che era finito in carcere perché faceva uso di droga. All'interno del carcere si era ripulito un po', quindi quando l'ho accompagnato fuori in permesso non aveva dove andare, non conosceva nessuno, perché gli amici che conoscevano erano amici che facevano parte del suo vecchio giro, quindi non li voleva andare a cercare. Siamo usciti, ha passato la giornata alla sede dell'associazione, così. E poi con altri detenuti ho sostenuto un gruppo di detenuti che vedevamo a fondare un'associazione che hanno chiamato Chiusi Fuori, perché stranamente, per come è impostata la nostra società, i detenuti hanno l'assistente sociale quando sono in carcere, hanno alcune figure intorno, però una volta che finiscono la loro pena, nel momento in cui ci sarebbe il grandissimo bisogno, si ritrovano da soli, detto così. Quindi per questo motivo ho sostenuto un gruppo di detenuti che hanno fondato un'associazione che si chiamava Chiudo Fuori, con l'intenzione di aiutare i detenuti che escono a inserirsi nella società normalmente. E con molti altri detenuti ho avuto modo per parlare con le loro famiglie, prendendo ispirazione dal mio professore che andava fino alla Tunisia per vedere le famiglie di detenuti stranieri. Quindi comunque è un rapporto che si instaura a livello molto profondo, perché è un rapporto che parte con un po' di dubbio, si costruisce la fiducia, e poi una volta che è costruita anche la fiducia va avanti. Quindi rapporti molto belli. Ottimo. Adesso una piccola pausa per noi, ci ritroviamo presto dopo lo stacco musicale. Yeah. Eccoci tornati dopo un breve stacco musicale, ritorniamo a parlare insieme a Fabian Lang di volontariato in carcere. Infatti parto la prima, il primo incontro che faccio quando c'è il gruppo si rinnova, parte sempre con due parole, il dovere e il volere. Non faccio mai niente che non voglio fare, non faccio mai niente perché lo devo fare, no. Quindi qualcuno mi dice, ma ci sono molte cose che devo fare. Gli dico no, quella cosa che devi fare può diventare che vuoi fare quella cosa se associ un motivo. Va bene? È la stessa cosa sulla speranza. Se spero e non lo faccio diventare un progetto, rischia di diventare un'illusione. Quindi, se faccio perché devo, rischio di fare male, rischio di sbagliare. Faccio perché voglio. Se mio amico mi chiama ad andare a fare una rapina, devo assicurarmi che voglio fare quella rapina, perché se nella procedura di assicurarmi che voglio, mi consentirà di vedere il magistrato, mi consentirà di vedere le sbarre e di considerare quella come ipotesi che mi potrebbe poi eventualmente fare rinunciare a quel mio progetto lì. Va bene? Se faccio qualcosa perché voglio, la farò bene, non sbaglierò. Si parte da fondamentale pensiero che alla base di ciascuno di noi c'è la voglia di far bene. Alla voglia di base di ciascuno di noi c'è la paura di finire in carcere, di sbagliare. Quindi se entriamo in contatto col nostro essere profondo, siamo in grado di evitare i problemi e di fare la cosa giusta. Anche per oggi la nostra pillola di libri dentro Duradio termina qui, ma noi ci ritroviamo settimana prossima sempre insieme a Fabian Lang per parlare ancora di volontariato all'interno del carcere con le persone detenute. E rieccovi, bentornati. Sempre per i saluti di fine puntata vi annunciamo ciò che segue nella mezz'ora successiva. Abbiamo le interviste sostenibili a cura di Danilo Cinti. Il titolo della puntata è Pandemie e salute unica, con l'intervista ad Alessandra Scagliarini. E poi seguirà Airswap e Massama, che è la prima uscita di questa rubrica condotta da Arianna Callegaro, che parlerà con Gianvito Di Stefano di arte in carcere e del progetto che ha coinvolto detenuti del carcere di Oristano e artisti internazionali. Scriveteci redazione liberidentro @gmail.com. Noi ci rivediamo domani. Un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese, Enea Flacco al montaggio delle nostre puntate, Diana Bota, la nostra tirocinante, Paola Leotti, e ci rivediamo domani. Grazie a tutti. Liberi dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.